Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. C'era Roma, ma non ero più costretto a destreggiarmi, a lusingare, a piacere. Le opere del mio principato si imponevano, le porte del Tempio di Giano, che si aprono in tempo di guerra, restavano chiuse. Le mie buone intenzioni davano i loro frutti, la prosperità delle province rifluiva nella metropoli. Non rifiutai più il titolo di padre della patria che mi era stato proposto all'epoca del mio avvento. Plotina non era più. Durante un mio precedente soggiorno nell'urbe avevo rivisto per l'ultima volta quella donna dal sorriso un po' stanco che il protocollo ufficiale mi attribuiva per madre e che era per me assai di più, la mia unica amica. Questa volta non ritrovai di lei che una piccola urna deposta sotto la colonna Traiana. Assistei di persona alle cerimonie dell'apoteosi, in contrasto con l'uso imperiale, presi il lutto per un periodo di 9 giorni. Ma la morte modificava ben poco quella intimità che da anni faceva a meno della presenza. L'imperatrice restava quella che era sempre stata per me, uno spirito, un pensiero, al quale il mio si era unito. Giungevano a termine alcuni grandi lavori di costruzione. Il Colosseo restaurato, purificato dei ricordi di Nerone che lo funestavano ancora, era adorno, invece che dell'immagine di quell'imperatore, d'una effigie colossale del sole, Elio Re, per un'allusione al mio nome gentilizio, Elio. Si dava l'ultima mano al Tempio di Venere in Roma, costruito anch'esso nel luogo della scandalosa Domus Aurea, dove Nerone aveva fatto pompa ignobile d'un lusso mal conseguito. Mi si era imposta la costruzione d'un tempio a tutti gli dèi, d'un Pantheon. Ne avevo scelto l'area sulle rovine delle antiche terme pubbliche offerte al popolo romano da Agrippa, genero di Augusto. Del vecchio edificio non restava null'altro che un portico e la lastra di marmo d'una dedica al popolo di Roma, che fu ricollocata accuratamente così com'era sul frontone del nuovo tempio. Poco mi importava che figurasse il mio nome su quel monumento che esprimeva il mio pensiero. Al contrario, mi piaceva che un'iscrizione antica d'un secolo e più lo associasse agli inizi dell'impero, al regno pacificato di Augusto. Anche là dove rinnovavo mi piaceva sentirmi anzitutto un continuatore. Al di là di Traiano e di Nerva, divenutimi ufficialmente padre e avo, mi riattaccavo persino a quei 12 Cesari tanto denigrati da Svetonio. La lucidità di Tiberio, ma non la sua durezza. L'erudizione di Claudio, non la sua debolezza. L'amore delle arti di Nerone, esente però da ogni sciocca vanità. La bontà di Tito, ma non così dolciastra. La parsimonia di Vespasiano, senza la sua lesina ridicola, costituivano altrettanti esempi che mi proponevo. Quei principi avevano rappresentato la loro parte nelle cose umane, ormai spettava a me scegliere tra i loro atti quelli che era bene continuare, consolidare i migliori, correggere i peggiori, sino al giorno in cui altri uomini, più o meno qualificati di me, ma egualmente responsabili, si sarebbero incaricati di fare altrettanto con i miei atti. Avevo ritoccato di persona i progetti troppo cauti dell'architetto Apollodoro. Delle arti della Grecia volli servirmi per le decorazioni, come per un lusso supplementare, ma per la struttura dell'edificio ero risalito ai tempi primitivi e favolosi di Roma, ai templi rotondi dell'Etruria antica. Avevo voluto che quel santuario di tutti gli dèi riproducesse la forma della terra e della sfera stellare, della terra dove si racchiudono le sementi del fuoco eterno, della sfera cava che tutto contiene. Era quella, inoltre, la forma di quelle capanne ancestrali nelle quali il fumo dei più antichi focolari umani usciva da un orifizio aperto alla sommità. La cupola, costruita ad una lava dura e leggera che pareva partecipe ancora del movimento ascensionale delle fiamme, comunicava col cielo attraverso un largo foro, alternativamente nero e azzurro. Quel tempio aperto e segreto era concepito come un quadrante solare. Le ore avrebbero percorso in circolo i suoi riquadri, accuratamente levigati da artigiani greci. Il disco del giorno vi sarebbe rimasto sospeso come uno scudo d'oro. La pioggia avrebbe formato una pozzanghera pura sul pavimento. La preghiera sarebbe volata simile al fumo verso quel vuoto nel quale collochiamo gli dèi. A poco la luce cambiò. Dopo 2 anni e più si notavano le orme del tempo, dei progressi d'una giovinezza che si forma, si indora, sale quasi allo zenith. La voce fonda del fanciullo s'abituava a dare ordini a nocchieri e capicaccia, la falcata più lunga del corridore, le gambe del cavaliere che stringono la cavalcatura con maggiore esperienza, l'alunno che a Claudiopoli aveva imparato a memoria lunghi frammenti di Omero e si appassionava di poesia lasciva e raffinata, ora si estasiava di alcuni brani di Platone. Il mio pastorello diventava un giovane principe. Non era più il fanciullo zelante che alle soste si gettava da cavallo per offrirmi l'acqua delle sorgenti attinta nel cavo delle sue palme. Ora il donatore conosceva il valore immenso dei suoi doni. Durante le cacce organizzate nelle terre di Lucio in Etruria, m'ero divertito a mescolare quel volto perfetto alle fisionomie grevi e aggrottate dei grandi dignitari, ai profili acuti degli orientali, alle rozze grinte dei cacciatori barbari, a costringere il mio diletto alla parte difficile di amico. A Roma s'erano orditi intrighi intorno alla sua giovane testa, s'erano esercitati sforzi abietti per catturare la sua influenza e sostituirvene qualche altra. La capacità di chiudersi in un pensiero unico dotava quel diciottenne d'una sorta di indifferenza che manca ai più saggi. Aveva saputo sdegnare tutte quelle trame o ignorarle. Ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara che non sfuggì agli scultori. Offro qui ai moralisti un'occasione facile per trionfare di me. I miei censori si apprestano già a scoprire all'origine della mia sventura le conseguenze d'un traviamento, il risultato d'un eccesso. Mi è difficile contraddirli, in quanto non riesco a scorgere in che cosa mi sia traviato, in che cosa io abbia ecceduto. Mi sforzo di ridurre il mio delitto, se tale dobbiamo chiamarlo, a proporzioni esatte. Mi dico che il suicidio non è poi così raro, che è un fatto abbastanza comune, morire a 20 anni. La morte di Antinoo è un problema, oltre che una sciagura, per me solo. Può darsi che questa sciagura sia stata inseparabile da un eccesso di gioia, da un sovrappiù d'esperienza di cui non avrei consentito a privarmi né a privare il mio compagno di pericolo. I miei rimorsi a poco sono divenuti anch'essi un aspetto amaro di possesso, un modo di assicurarmi d'esser stato sino alla fine lo sventurato padrone del suo destino. Ma non ignoro che bisogna fare i conti con le iniziative personali di quell'estraneo affascinante che resta, malgrado tutto, ogni essere amato. Se m'assumo tutta la colpa, riduco quella giovane figura alle proporzioni di una statuetta di cera che io avrei modellato e poi infranta con le mie stesse mani. Non ho il diritto di avvilire quel raro capolavoro che fu la sua fine. Devo lasciare a quel fanciullo il merito della propria morte. Naturalmente non ne faccio una colpa al fattore dei sensi, molto ovvio del resto, che determinava la mia scelta in amore. Di passioni consimili ne erano passate spesso nella mia vita, ma quegli amori frequenti non m'erano costati che un minimo di promesse, di menzogne, di pene. La breve esaltazione per Lucio non m'aveva trascinato che a poche follie e irrimediabili. Nulla vietava che sarebbe accaduto lo stesso di questa mia tenerezza suprema. Nulla, salvo precisamente quella qualità unica che la distingueva dalle altre. La sua fazione ci avrebbe condotti a quella fine senza gloria, ma anche senza disastri, che la vita procura a tutti coloro che non le ricusano il logorio del tempo. Avrei assistito al mutarsi della passione in amicizia, come pretendono i moralisti, oppure in indifferenza, il che è più frequente. Un essere giovane si sarebbe staccato da me nel momento in cui il nostro legame avrebbe cominciato a pesarmi. Altre consuetudini sensuali, o le stesse, sotto forme diverse, si sarebbero insediate nella sua vita. Il suo avvenire avrebbe contenuto un matrimonio, né migliore né peggiore di tanti altri, una carica nell'amministrazione delle province, la gestione d'un possedimento rurale in Bitinia, o anche l'inerzia, la vita di corte proseguita in qualche posizione subalterna, nel peggiore dei casi una di quelle carriere di favorito decaduto che si trasforma in confidente o in lenone. La vera saggezza, se ci capisco qualcosa, consiste nella consapevolezza di tutte queste eventualità che costituiscono la vita stessa, salvo a far di tutto per scartare le peggiori. Ma né quel fanciullo né io eravamo saggi. Più tardi, ad Atene, la consacrazione dell'Olimpion diede occasione a feste che ricordavano le solennità romane, ma quel che a Roma s'era svolto sulla terra, laggiù avvenne in pieno cielo. In un dorato meriggio autunnale presi posto sotto quel portico concepito per la statura sovrumana di Zeus. Il tempio di marmo pareva perdere peso, fluttuare come una densa nube bianca. Le mie vesti rituali s'intonavano con i colori della sera. Avevo collaborato con i secoli, con la stessa vita greca. L'autorità che esercitavo, più che un potere, era una potenza misteriosa che sovrasta l'uomo, ma che agisce efficacemente solo attraverso la mediazione dell'uomo. Le nozze di Atene e Roma erano consumate. Il passato ritrovava il volto dell'avvenire. La Grecia ripartiva come una nave lungamente immobilizzata dalla bonaccia che torna a sentire la spinta del vento nelle vele. Fu allora che mi strinse il cuore la malinconia d'un istante. Pensai che le parole adempimento, perfezione, contengono in sé la parola fine. Forse non avevo fatto che offrire una nuova preda al tempo divoratore. Penetrammo poi all'interno del tempio, dove gli scultori erano ancora intenti al lavoro. L'immenso abbozzo del Zeus d'avorio e d'oro rischiarava vagamente la penombra. Ai piedi dell'impalcatura il grande serpente che avevo fatto cercare in India per consacrarlo in quel santuario greco riposava già nella sua cesta di filigrana, animale divino, emblema strisciante dello spirito della terra, da sempre associato al giovinetto nudo che simboleggia il genio dell'imperatore. Antino, compenetrandosi sempre più in questa parte, servì lui stesso al serpente la sua razione di colombe dalle ali tarpate. Poi, levate le braccia al cielo, pregò. Sapevo che questa preghiera fatta per me non si indirizzava che a me solo, ma non ero abbastanza Dio per indovinarne il senso, né per sapere se un giorno o l'altro sarebbe stata esaudita. Che sollievo uscire da quel silenzio, da quella penombra turchina, ritrovare le strade di Atene rischiarate dalle lampade, la familiarità del popolo, le grida nell'aria densa della sera, la giovane figura che ben presto avrebbe adornato tante monete del mondo greco diveniva per la folla una presenza amica, un prodigio. Non l'amavo di meno, l'amavo anzi di più, ma il peso dell'amore, come quello d'un braccio teneramente posato sul petto, a poco si rendeva pesante. Riapparvero le comparse. Ricordo quel giovane asciutto e sottile che mi accompagnò durante un soggiorno a Mileto e al quale, però, rinunciai. Ricordo una serata a Sardi. Il poeta Stratone ci condusse da un luogo di perdizione a un altro in compagnia di losche conquiste. Quello Stratone che aveva preferito la libertà oscura nelle taverne asiatiche alla mia corte era uno squisito motteggiatore, avido di provare la vanità di tutto quel che non è il piacere, forse per scusarsi di aver sacrificato adesso tutto il resto. Poi vi fu quella notte di Smirne, in cui costrinsi il mio giovane amico a subire la presenza d'una cortigiana. Il fanciullo s'era fatto dell'amore un'idea che restava austera, perché era esclusiva. Il suo disgusto giunse fino alla nausea. Poi ci si abituò. Quelle vane prove si spiegano con la mia inclinazione alla sregolatezza. Vi si mescolava la speranza di inventare un'intimità nuova nella quale il compagno di piacere non avrebbe cessato d'essere l'amico, il prediletto. Vi si mescolava la bramosia di istruirlo, di far passare la sua giovinezza attraverso le stesse esperienze che erano state quelle della mia, forse anche più inconfessata. L'intenzione di degradarlo a poco al livello dei piaceri banali che non impegnano. Il mio bisogno di ferire quella tenerezza ombrosa che rischiava di costituire un impaccio nella mia vita non era esente da angoscia. Durante un viaggio nella Troade, visitammo la pianura dello Scamandro sotto un livido cielo da bufera. L'inondazione, i cui danni ero venuto a ispezionare sul luogo, trasformava in isolotti gli antichi sepolcri. Per alcuni istanti mi raccolsi sulla tomba di Ettore. Antino andò a sognare su quella di Patroclo. Non seppi riconoscere nel cerbiatto che m'accompagnava l'emolo del camerata di Achille. Schernii le fedeltà appassionate che fioriscono soprattutto nei libri e la bella creatura insultata arrossì a sangue. La franchezza era sempre più la sola virtù alla quale mi costringevo. Mi accorgevo che le discipline eroiche di cui la Grecia ha pervaso l'affetto d'un uomo maturo per un compagno più giovane spesso non sono per noi che ipocrite smancerie. Ero rimasto più sensibile di quel che io credessi ai pregiudizi di Roma. Ricordavo che essi concedono al piacere la sua parte, ma stimano l'amore una mania disdicevole. Ero ripreso dalla furia di non dipendere da nessun essere in maniera esclusiva. Mi esasperavano bizzarrie che erano proprie della giovinezza e come tali inseparabili dal mio compagno. Finivo per ritrovare in questa passione tanto dissimile tutto quel che m'aveva irritato nelle amanti romane. I profumi, la ricercatezza, il lusso freddo delle acconciature ripresero posto nella mia vita. In quel cuore malinconico si insinuarono i primi timori, quasi ingiustificati. Lo vidi preoccuparsi d'aver presto 19 anni. Qualche capriccio pericoloso, collere che squassando su quella fronte caparbia agli anelli di medusa dei capelli, si alternavano a una malinconia che somigliava al torpore, a una dolcezza sempre più stanca. Mi accadde di percuoterlo. Ricorderò sempre quei suoi occhi atterriti. Ma l'idolo offeso era pur sempre l'idolo, e cominciavano i sacrifici espiatori. Pochi giorni prima di partire da Antiochia mi recai, come in altri tempi, a sacrificare in vetta al Monte Cassio. L'ascensione fu fatta di notte. Come per l'Etna, condussi con me solo una piccola cerchia di amici dai muscoli provati. Non mi proponevo soltanto di compiere un rito propiziatorio in quel santuario, più sacro d'ogni altro. Volevo rivedere di lassù il fenomeno dell'aurora, quel prodigio quotidiano che non ho mai contemplato senza un segreto palpito di gioia. Sulla vetta il sole fa risplendere gli ornamenti di rame del tempio, i volti illuminati sorridono in piena luce, mentre le pianure dell'Asia e il mare sono ancora immersi nell'ombra. Per pochi istanti l'uomo che prega sulla cima è il solo a godere del mattino. Tutto fu approntato per un sacrificio. Prendemmo a salire dapprima a cavallo, poi a piedi, lungo ardui sentieri fiancheggiati da ginestre e lentischi che si riconoscevano di notte dal profumo. L'aria era densa. Quella primavera bruciava come altrove l'estate. Per la prima volta in un'ascensione in montagna mi mancò il respiro. Dovetti appoggiarmi un istante sulla spalla del mio prediletto. Un temporale, previsto da tempo da Ermogene, che se ne intende di meteorologia, si scatenò a un centinaio di passi dalla cima. I sacerdoti uscirono per venirci incontro al bagliore dei lampi. L'esigua compagnia, fradicia fino alle ossa, si affrettò attorno all'altare disposto per il sacrificio. Questo stava per compiersi, allorché un fulmine, balenando su di noi, uccise d'un colpo solo il vittimario e la vittima. Passato il primo istante di orrore, Ermogene si chinò con l'interesse dei medici sul gruppo fulminato. Cabria e il gran sacerdote proruppero in grida d'ammirazione. L'uomo e il cerbiatto sacrificati da quella folgore divina s'univano all'eternità del mio genio. Quelle vite prolungavano la mia. Antino, aggrappato al mio braccio, tremava, non già di terrore, come credetti allora, ma percosso da un'idea che compresi più tardi. Un essere che aveva orrore della decadenza fisica, della vecchiaia, da tempo aveva dovuto ripromettersi di suicidarsi al primo indizio di quella decadenza. o anche molto prima. Oggi giungo a credere che questo impegno che molti di noi si giurano senza poi mantenerlo, in lui fosse radicato da moltissimo tempo, dall'epoca di Nicomedia, da quell'incontro in riva alla sorgente. Questo impegno spiegava la sua indolenza, il suo ardore nel piacere, la sua malinconia, la sua indifferenza totale per il futuro. Ma bisognava ancora che quella sua fine non avesse l'aria d'una rivolta, non contenesse la minima recriminazione. La folgore del Monte Cassio gli indicava una soluzione. La morte poteva diventare una forma estrema di devozione, l'ultimo dono, il solo che sarebbe rimasto. La luminosità dell'aurora fu una povera cosa, accanto al sorriso che si aprì su quel viso turbato. Qualche giorno dopo rividi lo stesso sorriso, ma più schivo, velato da ambiguità. A cena, Polemone, che si interessava di chiromanzia, volle esaminare la mano del giovinetto, quel palmo dove spaventava anche me una paurosa caduta di stelle. Il fanciullo ritirò la sua mano, la richiuse, con un gesto soave, quasi pudico. Voleva serbare il segreto del suo gioco e quello della sua fine. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Margherita Yourcenar, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.